Una psicologa ha affermato quanto segue. Un uomo è giovane quando una donna può renderlo felice o infelice. Un uomo è vecchio quando una donna non può renderlo più né felice né infelice. Un uomo è maturo quando una donna può renderlo felice e non più infelice. Non sempre gli psicologi dicono cose che corrispondono alla verità, ma credo che la valutazione di questa psicologa in merito all'uomo abbia molto del vero. Se poi questa valutazione la consideriamo nell'ambito del matrimonio, essa mette in evidenza un aspetto molto importante riguardo ai coniugi. Secondo questa psicologa, un matrimonio felice dipende dalla maturità dell'uomo e, rovesciata la verità, un matrimonio felice dipende dalla maturità della donna. In definitiva, in quanto a felicità, un matrimonio riuscito dipende dalla maturità dei partner. Su questo non vi sono dubbi. Non è la vita che rende felici perché è composta di gioie e di dolori, ma è l'atteggiamento che si ha verso di essa. Se piove posso lamentarmi perché mi bagno, ma noi uomini abbiamo inventato l'ombrello per evitare di bagnarci. Se esponendosi al sole ci si brucia, Dio ha creato l'ombra per proteggerci. Non vi è situazione che non abbia il suo lato positivo. Non tutti i mali, si dice, vengono per nuocere. Mentre l'Apostolo Paolo, con la visione cristiana, nonostante abbia sofferto come pochi altri, ha testimoniato che ogni cosa concorre o coopera al bene per coloro che amano Dio. Essere maturi psicologicamente è dunque il segreto per una vita vissuta ad alto livello e per vivere un matrimonio felice ed appagante. Ma maturi non si nasce, bensì si diventa. Questo spiega perché non tutti ritengono la vita un dono di Dio e non tutti vivono il matrimonio con quella gratitudine e felicità che esso porta con sé. Perciò, che si voglia o no, la vita è una scuola per diventare maturi, e se lo è la vita, quanto più il matrimonio. Mentre i rapporti con il prossimo ci sono e non ci sono perché in fondo la relazione è temporanea, nel matrimonio il rapporto è continuo, notte e giorno, per cui non vi è relazione che obblighi alla maturità quanto il matrimonio. In questa ottica il matrimonio è stato istituito da Dio non solo per il bene della razza umana, ma soprattutto perché l'uomo e la donna imparino a vivere in collaborazione in modo maturo, altrimenti ogni iniziativa presa fuori dal proprio ruolo sono come le medicine, fanno bene da una parte ma male da un'altra. Quali sono le espressioni del matrimonio? È impossibile farne un elenco, mentre se ne può gettare alcuni principi, il primo dei quali è quello della psicologa. Rimanere felici nonostante tutto. Questo primo aspetto concorda con ciò che l'uomo e la donna non devono fare nei confronti del proprio partner. Spesso gli sposi conoscono i loro doveri in senso positivo, cioè amarsi, ma non sanno o non tengono presente ciò che non devono fare. L'Apostolo Paolo lo ha scritto in una sua lettera rivolta ai credenti di Colosse. Mariti, amate le mogli e non vi inasprite contro di loro. Colossesi 3:19. Non ci deve sfuggire in questo ordine che il non inasprirsi segue il comando di amare le mogli. Si sa che l'amore è il comandamento per eccellenza e che una volta amato si è adempiuto alla legge, ma Paolo, dopo aver comandato ai mariti di amare le mogli, ordina anche di non inasprirsi verso di loro. Evidentemente nell'ordine di amare la moglie, Paolo aveva in mente tutte le cose che l'uomo deve fare di positivo nei confronti della donna, e nel non inasprirsi pensava a ciò che il marito non deve fare. Per quanto io ne sappia, è l'unico comandamento di divieto rivolto al marito. Perché? Non certamente perché è l'unico atteggiamento negativo che l'uomo possa tenere nei confronti della moglie, ma per il fatto che sia quello più comune per un marito. Per comprendere questo occorre andare alla fonte della questione. Il marito è e dovrebbe essere il capo della moglie e come tale egli ha autorità decisionali sull'andamento della famiglia e anche sulla donna. L'autorità, secondo il pensiero divino, consiste nell'assumersi le fondamentali responsabilità di servire, proteggere e provvedere al nucleo familiare, e non nel prevaricare o abusare di chi ci è sottomesso. Proprio perché l'uomo ha il ruolo dirigenziale e ne è cosciente, a volte cade nell'insofferenza a causa del mancato rispetto nei confronti dei suoi diritti. diventando così aspro o, secondo i sinonimi, brusco, rozzo, rigido, duro. L'apostolo Pietro, che era sposato, lo sapeva molto bene e per questo scrisse: «Similmente voi mariti vivete con le vostre mogli, con la comprensione dovuta alla donna come al vaso più debole, e onoratele perché sono coeredi con voi della grazia della vita, affinché le vostre preghiere non siano impedite». 1 Pietro 3, 7. La comprensione e l'onore del marito verso la moglie fanno parte di un atteggiamento maturo che spesso si acquista dopo anni di convivenza. Anche la moglie deve mostrare maturità astenendosi da certi atteggiamenti negativi. La parola di Dio al riguardo l'ammonisce spesso. Punto punto. Le risse della moglie sono come un gocciolare incessante. Proverbi 19:13. È meglio abitare sull'angolo di un tetto che in una casa condivisa con una donna litigiosa. Proverbi 21:9. È meglio abitare in un deserto che con una donna litigiosa e irritante. Proverbi 21:19. La parola di Dio dichiara che chi ha trovato una moglie ha trovato un tesoro, Proverbi 18:22, e che una moglie giudiziosa è un dono dell'Eterno, Proverbi 19:14, eppure vi è una caratteristica negativa nella moglie che allontana il marito dalla casa e da lei, la sua litigiosità o il suo essere brontolona. Se al marito maturo è richiesto di non inasprirsi nei confronti della moglie, alla moglie matura è chiesto di non essere polemica, controversa. Questo è possibile solo se ognuno riveste il proprio ruolo. È indiscutibile che la donna debba essere sottomessa e anche se questo termine provoca una reazione negativa nelle donne, non è sbagliato il principio della sottomissione, ma errata è l'opinione che abbiamo di essa. La sottomissione è un principio divino. Questo termine è usato anche per indicare la relazione tra il cittadino e autorità civili, tra figlio e genitore, tra Cristo e Dio. Risulta evidente che la sottomissione significa l'accettazione di un ordine naturale, nel quale qualcuno offre protezione e sostentamento, mentre l'altro trova vero sviluppo e scopo. La sottomissione è una disposizione piuttosto che un elenco di comportamenti o atteggiamenti. Ne consegue che una moglie matura si esprimerà in modi diversi a secondo le circostanze. La sottomissione è una disposizione ad affidarsi all'autorità del marito e l'inclinazione a seguire la sua guida. E non implica necessariamente obbedienza, soprattutto obbedienza assoluta. Senza una relazione matura, marito e moglie saranno degli estranei perché non avranno il coraggio di aprirsi per conoscersi, per dare ciò che è gradito all'altro. Una relazione ottimale nel matrimonio è che ogni coniuge sia arrivato ad esprimere la maturità della propria personalità, godendo nello stesso tempo della diversità dell'altro. Per raggiungere questo fine, la donna deve consolidare la forza che riceve, perfezionare e ampliare l'autorità che ricerca nel marito. Una donna matura porta nutrimento, energie e idee che rendono l'uomo più forte e più saggio. E a questo scopo che è stata creata la donna. Chi lo ha capito? Un atto di maturità degli sposi sarà quello di voler conquistare tutte le gioie che offre il matrimonio. E non vi può essere gioia se tutto il loro essere ne è coinvolto. Forse sembra strano, ma anche la sessualità ha bisogno di maturità. Condivido l'opinione di molti secondo la quale oggi si insegna ai giovani ogni cosa sul sesso, ma non una sessualità matura. Forse questa è una delle ragioni dell'inquietudine sessuale che provano gli sposi cristiani. Ho letto vari articoli in merito a come si deve esprimere una sessualità matura, delle quali la seguente è la migliore. La mascolinità matura esprime la propria autorità in relazioni sessuali romantiche e diffonde un clima di forza e di tenerezza. La giusta unione di tenerezza e di forza rende unica la qualità dell'autorità maschile nelle relazioni sessuali. La combinazione tra vigoria e tenerezza, forza e affetto, potenza e sessualità, virilità e delicatezza, impreziosiscono l'autorità maschile. Essa trova espressioni nella fermezza della sua presa, nella forza dell'abbraccio, nella continuità degli apprezzamenti verbali. indicare solo alcune delle centinaia delle sfumature nell'atteggiamento maschile che si distinguono da quello femminile. È importante affermare che esiste un comportamento tipicamente femminile nelle relazioni sessuali. Ecco perché la parola intraprendere non è più idonea a descrivere l'autorità maschile nelle relazioni sessuali. La moglie può intraprendere i primi approcci romantici e mantenere l'iniziativa a diversi livelli, ma rimane una differenza di fondo. L'iniziativa femminile è in effetti un invito per l'uomo ad attuare il suo tanto da tipo di iniziativa. In un certo senso si può dire che in quel caso l'uomo sta rispondendo, ma di fatto la moglie lo sta invitando a condurre come solo lui può fare, così che sia lei a rispondergli. Ciò non significa che l'uomo non sia in grado di guidare il rapporto, visto che può cominciarlo la donna. Quando una moglie desidera una relazione sessuale con suo marito, desidera essere cercata da lui e presa nelle sue braccia e godere il piacere che può darle la sua intraprendenza. Si pensi a ciò che va perso quando una donna tenta di assumere un ruolo maschile, cercando di apparire fisicamente muscolosa e aggressiva. Il matrimonio costringe le persone a diventare mature. Non vi è neutralità. Quando un marito cerca la felicità nella felicità di sua moglie, quando una moglie cerca la felicità nella felicità di suo marito, quando i coniugi si trovano l'un l'altro fisicamente, moralmente, spiritualmente desiderabili, si sono abbattute le grandi barriere dell'egoismo e dell'infantilismo e si è giunti allo stadio di una relazione intelligente e matura. Relazione che deve essere cercata per tutta la vita. Maggio 2005. Contributo. Desiderio e tenerezza Claudiana Eric Fuchs. Ellero.